Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Chiedo a lei, Presidente, chiedo anche ai Questori, come possa ritenersi minimamente giustificabile il capitolo che prevede di spendere 350.000 euro di soldi dei cittadini per coprire l'assicurazione vita, invalidità e infortunio dei deputati. E li vado a elencare perché questa è l'assicurazione che i cittadini stanno pagando oggi. Punture e morsi di animali, malattie tropicali, affogamento, ernie addominali, escursioni in montagna. I deputati vanno in montagna e chi paga l'assicurazione? I cittadini italiani. Colpi di sole, buone ferie a tutti, tanto state tranquilli, se prendete un colpo di sole o un colpo di calore, è scritto qui, pagano gli italiani. In caso di calamità naturali pagheranno gli italiani, terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. Se subiscono un infortunio in stato di ebbrezza, un'assicurazione se subite dei danni in caso di sommosse, insurrezioni o tumulti popolari. Cioè fate le leggi che effettivamente un po' certe cose le stanno anche stimolando nell'opinione pubblica, sia mai che avvengano, magari subito un infortunio durante una sommossa e da chi vi fate pagare i danni? Dagli stessi che vi hanno magari malmenato in quel momento a causa del vostro comportamento. Il deputato Fraccaro che abbiamo rispolverato e che racconta come i soldi degli italiani qualche tempo fa vengono spesi per le assicurazioni dei parlamentari. Beh, questo non è male, in stato di ebbrezza, eh? Cioè il parlamentare che è in stato di ebbrezza, sì, è di qualche tempo fa, giustamente, come mi fanno notare. Però volevamo iniziare così, sempre per mettervi di buon umore, signori. Alle 6:33 minuti vi vogliamo mettere di buon umore, così voi andate a lavorare, sapete che parte piccola, piccina del vostro stipendio andrà a rimpolpare le casse dell'assicurazione dei parlamentari, che in caso di sommossa popolare magari si rompano un'unghia, c'è l'assicurazione. Farabutti di ogni tipo. Oh mamma mia, iniziamo. Dai De Luca, vai, conduci tu, dai, su. Bombe atomiche. Si sa, se conduce De Luca, ragazzi, qui ci saranno dei momenti. Missili termonucleari. Adesso De Luca, come al solito, poi se ti fai prendere la mano, uno ti ma dà... si capisce che non è mestiere tuo. We know the power. Questo forse, caro De Luca, licenziato. Lo aspettavo. Allora, sono le 6:34 minuti, buona giornata a tutti da 24 mattino, la redazione con Lorenzo Nespoli, con Peter Bescapè in regia, con intanto... La nostra Veronica, è single o no? È single o no? Signori, è la seconda settimana decisiva per scoprire se Veronica Gentili sia fidanzata oppure no. Buongiorno. Ecco, voi Veronica, la provincia. Eccola lì, ah, la provincia, no, perché ti ho trattata come una provincia. Ormai, capisci, mi tratti come una provincia trattante. Eccola qua. Buongiorno, sciocchina. Buongiorno. Come andiamo? Bene. Procede? È uno. Comincio presto oggi, perché tengo delle medie troppo basse ultimamente. Sciocchina, va bene. E mi arrivano diversi appunti da questo punto di vista. Allora cerco di stare attento. Stai veramente prendendo tempo. Cosa vuoi che ti dica? In una settimana quante cose possono essere accadute? Potrei averlo incontrato in questa settimana o averlo abbandonato in questa settimana. Chi può dirlo? Che meraviglia. Ma chi può dirlo? Allora, insieme a Veronica Gentili. Lui può dirlo. Lo sa. Lui lo sa. Veronica Gentili, forse fidanzata, forse non lo so, forse non si sa, potrebbe dirci tutto il nostro super mega dir Luca Dini. Buongiorno Luca, come va? Buongiorno. Tu potresti a Vanity Fair, secondo me, un po' di informazioni potresti anche recuperarle. Mi taglieremo qualche. Anche perché quando la metterai in prima di copertina scopriremo se. Ma Luca sa già tutto, ma non dice. Quando ci sarà la copertina di Vanity Fair dedicata non come oggi a un inutile Brad Pitt, ma a Veronica Gentili, noi sapremo a quel punto. Anche perché ormai, insomma, ci un siamo. Po' passato Brad Pitt, diciamo. Esatto. Un po' follato. Allora, signori, però devo aprire il Parlamento, perché oggi voglio fare la mia intemerata uscita. Ragazzi, se uno esce, prendo un caffè, così. No, veramente. Contro questo paese di superstiziosi, questo paese insopportabile. Anche una categoria, diciamolo, caro Luca, di giornalisti che... Va bene, oggi due titoli mi hanno fatto imbufalire. Il primo è sul Giorno, prima pagina, Montagna Maledetta. Ah, questo era un vecchio spettacolo anche di Beppe Grillo che lo diceva, ma con Montagna Maledetta che cosa? Con la montagna è lì, non fa niente, è lì. È come, non so, crolla una funivia killer. No, la funivia non fa nulla, cioè, la montagna non è maledetta. Ma soprattutto ci siamo superati sul Giornale. Eccolo qua. Caro Luca, hai visto il titolo del giornale? Non l'hai visto? No. Non l'ho ancora visto. Titolo del giornale qua. Dio non è abruzzese. Titolo di prima pagina. Cade elicottero, come dire, pure l'elicottero in questi... Dio non è abruzzese. Che fa il pari un po' anche con, per carità, e lo capisco, mi hanno criticato molto, mi hanno scritto quando abbiamo fatto sentire il sindaco di Amatrice che ha detto ma che abbiamo fatto addio per... ma niente avete fatto, basta queste superstizioni medievali. Ecco, ho fatto la mia intemerata. Poi dici uno non si deve chiamare sciocchina. Ecco, esatto, è duro. Pazienza, scusami, e poi no, dite sono io. Esatto. Che dici, direttore? Tu faresti un bel titolo. No, assolutamente, sono bestialità. Soprattutto, cioè, il nostro problema è la memoria. Non ci ricordiamo mai delle cose. Cioè, a me ha colpito questa cosa dell'hotel costruito in un posto dove c'era stato non so quanti anni fa una valanga disastrosa. Tutte le volte noi facciamo questi discorsi, poi si va in mezzo Italia, ci sono nei greti dei fiumi le case abusive sanate, costruite, cioè la natura fa delle cose che a volte sono veramente imprevedibili, non si può fare niente. In più noi ci mettiamo del nostro, dimentichiamo, cioè, una volta le costruzioni, monasteri eccetera, in montagna venivano costruiti principalmente in certi posti perché c'era più o meno a memoria il pericolo maggiore di certe situazioni. Adesso no. Noi dimentichiamo e poi diciamo montagna assassina. Montagna assassina. Ragazzi... Vabbè, la cosa dell'elicottero è terribile. Esatto. Però, insomma, è un incidente, capita, le montagne stanno lì, le valanghe vanno da su a giù. La neve cade da su a giù, le slavine pure, le cose accadono, soprattutto in natura. Un conto però sono appunto il sindaco che è implicato in quel momento, chi è coinvolto, e quindi può avere anche dei momenti in cui maledice tutto e tutti e può sentirsi appunto vessato e che c'è un attimo di accanimento. o si può dire che ci sono una serie di contingenze per cui l'Abruzzo in questo momento è stato più sfortunato. Altra cosa sono i titoli per cui diventano, capito, sì, la superstizione, ci si aspetta che l'Abruzzo adesso faccia una specie di viaggio a Lourdes per andare a cercare di togliersi di dosso il suo, e lì diventa grottesco perché diventa una speculazione sopra. Ora è pur vero però che appunto in tutta quella, io sono d'accordo con te su questo, cioè la natura può essere molto irruente come è sempre non stata. non aiutiamola, stuzzichiamola che continua a credere di essere onnipotente, quindi quando poi scopri appunto che quell'albergo è stato costruito più e più volte sui detriti di crolli precedenti e che non si è riusciti a mettere un argine a questo, ti rendi conto che l'uomo ci mette veramente del suo, e quindi poi basta scavare veramente su quello che è successo prima e capisci sempre che le motivazioni c'erano e che in qualche modo erano evitabili. In ogni caso Del Rio racconta ora, la magistratura accerterà tutto. Certo che questo che è successo in Abruzzo, forse ieri giustamente avevamo Antonio Padellaro che ha detto dovremmo fare anche una considerazione sulla qualità della classe dirigente, ma proprio a tutti i livelli, cioè da chi è in situazioni di comando. Non lo so, forse c'è un impoverimento generale, una mancanza di qualità, perché anche... Ma c'è anche un pressappochismo, perché poi non c'è nemmeno la voglia di prendere in considerazione il proprio ruolo col dovuto rispetto, quindi progressivamente quello che vediamo succedere, no? Certo. La trascuratezza con cui si risponde alle cose che bisogna fare, come per esempio oggi il Corriere racconta, ci sono 2 ore e 31 minuti da quando c'è stato il primo allarme sul hotel crollato e la partenza dei soccorsi, 2 ore e mezza, anche perché c'è stata questa famosa telefonata. Per carità, ormai era crollato l'hotel, però insomma c'è stata questa telefonata in cui la dirigente in prefettura praticamente ha trattato a pesci in faccia quello che diceva che era crollato tutto. Comunque, Del Rio. La magistratura stabilirà se sono stati fatti degli errori nella progettazione, nella costruzione di questo edificio in una zona che non doveva essere, scelta, quindi questo non spetta a noi dirlo, Non spetta a noi dirlo, Luca, non lo so, io non so neanche se poi in questo paese in cui di verità giudiziarie poi vengono trascinate per anni si saprà mai se c'è una qualche responsabilità di questa cosa. Cioè, la colpa è un po' di tutti, perché poi insomma e quindi di nessuno. Tanti cittadini che scelgono di fare delle cose ignorando diciamo la storia, però su quello che dicevi della qualità della classe dirigente dei funzionari, non è una novità purtroppo, a me è quello che dà più fastidio. Poi da giornalista ogni tanto ti capita di stare in mezzo a tragedie, di vedere come vengono trattati i familiari che stanno aspettando notizie. Io quella trovo la cosa più brutta, cioè ci vorrebbe un corso per chiunque debba avere a che fare con queste cose che succedono purtroppo, e troppe volte si vede una superficialità, una mancanza di sensibilità e di tatto nel tenere informati o non tenere informati delle persone che stanno lì aspettando di sapere se i loro cari sono vivi o no. Questa la trovo la cosa più brutta, cioè ci vuole un'educazione alla sensibilità. Eh sì. Oggi poi su Libero si racconta, solo il titolo, Franco Bechis, poi lo leggerà in rassegna stampa, tra abusi, debiti non pagati, quell'hotel non doveva esistere. Per carità, questo è il titolo, si parla di zona dove sorge Agricola, divenuta edificabile grazie a una parentela politica, rate e bollette mai pagate, così. È lì, capito, che poi se scavi capisci sempre che è vero che la natura è brutta e cattiva. Sì, però c'è da dire veramente che le persone che vanno nell'hotel e che sono le persone vittime, per carità, ci sono anche i proprietari e non sanno poi e hanno il diritto di non sapere se è un hotel dove uno va è costruito su una zona agricola, voglio dire. No, ma le persone che ci vanno sono veramente hotel, vittime. Uno prenota un hotel, è lì. E quello Lì proprio non c'è niente da fare, lì è veramente soltanto una disgrazia, il fatto che uno si trovi lì in quel momento In ogni caso, qua dobbiamo iniziare a parlare anche un pochino di politica, perché la notizia del giorno sicuramente è Virginia Raggi, che è indagata ed è stata convocata dalla Procura di Roma. Forse Forse il migliore è Iena, dalla procura invito a comparire, dai romani invito a scomparire. No, Virginia Raggi, secondo la stampa, non lo so, per carità, qua abbiamo però una romana doc, la nostra Veronica Gentili, anche amicissima dei 5 Stelle, si sa, va a braccetto con amicissima, quelli. Ma sì, dai, si sa. A stretto contatto, braccetto, come sapete, proprio. Che ha questa secondo me se un, fidanzato c'è, sarà del 5 Stelle, sarà un Dibba, sarà un ma Dibba, ti sei stupito che ieri Dibba ha fatto vedere la fidanzata su Instagram? Infatti, non posso io, hai non detto, è Dibba, come? Non è Dibba, e Dibba l'abbiamo scritto, che è fidanzato con Sara, con l'H, ma l'H tra la A e la R. Sahra. Allora, oggi fidanzata, secondo me, è sciocchina. Va bene, sì, va bene. Sciocchina. Per oggi 3 soltanto 3. Sei sciocchina 3. 4 con l'H. No, vale 3. Vale, questo vale guarda, doppio. Ma non te li puoi contare come vuoi. Vale doppio, vale doppio. Allora, no, aspetta, andiamo al traffico, che poi c'è Dibba, Sahra e Virginia Raggi indagata. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Buongiorno Milan, ti ascolto alla radio, ma dire che sono sveglio è forse un po' eccessivo. Anche se brutto, l'uomo solo al comando fa più di questi politici che non gliene frega nulla, pensano solo al loro stipendio. Porca miseria, vogliamo vedere Platone a Roma. Milan, cosa aspetti? Quanto sei bella Roma, quando è sera. Io le interviste a voi che siete con la telecamera ve l'ho sempre concesse, lo farò sempre, e vado in TV in diretta perché è più difficilmente manipolabile. Ultimamente non sto più rilasciando interviste ai giornali perché vedo che una parola che dico viene scritta in un altro modo, e per me questo è un danno che viene fatto ai cittadini. Dibba, che poi si è presentato su Instagram con Sahra, eh? Caro Lucadini, te l'aveva nascosta anche a voi. Voi avete fatto una bella intervista a Dibba di recente, no? Se non sbaglio. Ma di Sahra non c'è. Di Sahra. Come dici Sahra? Sahra. Ma c'è... se ti ci fossi fidanzato tu con la signorina era un problema, no, perché da come pronunci il nome era una catastrofe questa relazione. Sì, rischiavo di sputarle addosso, cioè, ogni volta. Diventava una cosa, capito? Ciao Sahra. Facevo una petizione su Change.org per interromperla, sua storia. Effettivamente sì, era un po' un problema, era un po', no, ma massimo rispetto, non mi permetterei mai di insinuarmi in una coppia neoformata, no, e no, ma amorevole. In questo caso non è il caso, mi oppongo io. In questo caso farei solo dei danni con Sacra. Sarebbe veramente, non è il caso. Ogni volta lo dici più forte. Sì, è perché cresce l'amore, quindi giorno dopo giorno. Poi esatto, ti lasceresti prendere, avresti meno controllo, i danni. E dopo inizia Sahrina, Sahretta, inizi tutti i vezzeggiativi, è un disastro. Ma no, vabbè, Dibba, perdonaci, Sahra, perdonaci. Perdonami soprattutto. Allora, Virginia Raggi è indagata e invita a comparire, cara Veronica, adesso come la spiegano questa? Allora, ieri la mia sintesi della faccenda è stato l'aforisma di Beckett, no? Ho fallito, fallirò ancora, fallirò meglio, meglio dove, Virgì? Quindi voglio capire. Ecco. Cioè, ne abbiamo visti innumerevoli di errori. Ora, in realtà fallirò meglio un po' è vero, nel senso che questa volta si sono prese delle precauzioni minime per evitare che poi anche la gestione dell'errore fosse marchiana, anche quella, e facesse da detonatore a tutta la faccenda, per cui se non altro lei ha immediatamente annunciato la cosa su Facebook, ha segnalato quello che un po' si sa, cioè che fai l'ufficio stampa? Mi stai facendo l'ufficio stampa, no, del Movimento 5 Stelle? Io ti dico cosa ormai loro stanno imparando a evitare. Detto questo, cioè, insomma, non ti dico cosa nuova dicendoti che io penso che Virginia Raggi sia inadeguata e che quello che ha fatto i 5 Stelle sono stati più danni che non effetti benefici. E allora guarda, sentiamo un altro amico del 5 Stelle, questo vero Luca Dini, insomma, uno che no, ma guarda, io non sono avvelenato, nel senso che lo sapevamo già, non c'è nessuna, non è una sorpresa, come dice giustamente Veronica, la persona si è rivelata non adeguata, e anche io mi preoccuperei di più per quello che potrebbe ancora fare, anche di quello che ha già fatto. Perché questo un po' lo sapevamo, insomma, che sarebbe successo. Ora era nel gioco delle cose, da questa nomina che fosse stata comunque anomala e che ci fossero ancora tutta una serie di aspetti oscuri da risolvere rispetto alla questione Marra, un po' si sapeva. Sì, ma adesso vedremo. No, ma qui il tema è, vabbè, hanno cambiato lo statuto, per cui adesso non voglio riepilogare tutto, ma prima un avviso di garanzia era un disastro per il Movimento 5 Stelle, questa è l'accusa che fanno ovviamente i critici al Movimento 5 Stelle, adesso hanno cambiato, per cui Grillo dice che un avviso di garanzia non è poi un disastro, per cui non ci si deve dimettere. Ma per questo io ritengo che la Raggi sia nociva, però, perché purtroppo una serie di mosse di Grillo, secondo me, sono state dettate in parte da questa esigenza, dal codice etico, che io non penso venga solo da questo, ma credo venga anche da una serie di contingenze che ci sono state, per cui si è capito che bisognava mettere delle norme rispetto a questo, e quindi è stato fatto in questo modo. E però diciamolo sicuramente... anche, forse si è capito che siamo in un paese in cui la magistratura qualche iniziativa parapolitica la fa, forse, dai. Queste cose sai che le faccio dire a lo te, so. Che va fai bene, da solo, dai, che se, la falli, dai, va bene, questa non dirla a Travaglio, no, quando vai in redazione. Poi lo dico anche io. Ecco, no, non dire a Travaglio che qui Luca Dini e il sottoscritto pensiamo questo. No, Luca, ogni tanto qualche cosa sarà successo. Ma più di ogni tanto, diciamo, e soprattutto è un paese dove poi a volte, non sarà questo il caso, perché qui mi sembra purtroppo che la realtà sia abbastanza evidente, però... Mm. A volte poi queste cose vanno anche a finire nel nulla, quindi secondo me, cioè, anch'io vedo un po' di incoerenza, però onestamente per coerenza mia personale, se il Movimento 5 Stelle è diventato più garantista o ha scoperto che l'avviso di garanzia non è una condanna, non lo è, a me fa solo piacere. Sì. No, ma infatti qualche vicenda giudiziaria poi finita nel nulla c'è stata. Ma attenzione! Diciamo anche che la magistratura se la balla, se la canta e se la suona, perché la politica delega e non è in grado di prendersi una serie di responsabilità. Quindi gli avversari politici, nel momento in cui non si è più capaci di fare politiche, di eliminarli politicamente parlando, si dice a cosa mi attacco, quindi certo. Come la questione appunto del... codice del contratto, no? Che è pagato dalla Raggi, per cui era stato fatto questo ricorso per dichiararne l'ineleggibilità. Non è questo il sistema. Ora la Raggi a farsi danni ci pensa benissimo da sola, quindi lì non c'è il problema. Ma insomma, che la politica ormai giochi a rimpiattino in questo senso, senza più utilizzare dei sistemi che siano inerenti a ciò che le compete, si appellino alla magistratura come chiamando mamma. A dirimere le litigate tra bimbi, un po' purtroppo è così. Sì, quindi... devo dire che esatto. Poi secondo me non è neanche più amatissima così all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma voglio concludere dicendo che appunto sulla copertina di Vanity Fair c'è Brad Pitt. Che vedi, che il cui titolo del servizio è il titolo del servizio è Cosa farò da grande. Tu gli hai già dato del vecchio, cara Veronica, invece non mi sembra vecchissimo. Cioè, almeno, sì, ma si mantiene bene almeno. Infatti, io sto ancora decidendo se iscrivermi all'università o no. Ancora per poco, Luca. No, perché? Cioè, dici che avete dovuto ritoccare le foto anche a Brad Pitt? No, si presenta ancora un bel manzo. Però no, vorrei capire perché. Cioè, dare degli indizi, Veronica, aiutaci. Per esempio, ho capito, spulciando su Twitter, che al contrario di 8 italiani su 10 che amano l'uomo forte, attenzione, cari italiani, primo indizio, Veronica Gentili ha twittato questo: a me, per esempio, gli uomini forti non piacciono. Vedi, questo è indizio della tua superficialità, che poi non hai nemmeno cliccato per andare a vedere lo status su Facebook. Sciocchina! Per vedere cosa sarà scritto dopo. Allora, tu capisci, no, poi io mi fermo ai titoli del giornalismo, io mi fermo ai titoli, categoria. Ma poi ha ragione Di Battista, poi capito, leggono i titoli da te, si parte dal problema dell'Italia, sei tu. Quindi niente, non è vero che non ti piace, dovevo leggere tre righe più sotto. Diciamo che era un discorso che mirava arrivare alla politica e non a raccontare il mio tipo. Allora vediamo le facce, cose facce, biondi o mori, almeno Mori, perfetto. Poi l'ho detta, tranne le sciocchine possono essere anche biondi. Lasciamoci così, primo indizio. Mori. Va bene, mori. Occhi? Mori. Ma tendenzialmente scuri. Cioè, occhi sì, sì, dice due, due occhi, no, occhi sì. Ogni tanto anche occhi. Senza o uno solo, però sì. Se ci sono preferisco scuri. Scuri. Diciamo, ho sopportato anche occhi chiari. Ho sopportato anche occhi chiari. Moro, occhi scuri, signori, l'uomo mediterraneo per eccellenza. Questo è il primo indizio, i primi quindi, due indizi con cui vi lasciamo. Insomma. Questo era per far capire che tu sei il mio tipo. Esatto, volevo dare esatto, subito questo. Esatto, subito per stroncare possibilità, va bene. Dai, Moro, occhi scuri, è la seconda settimana decisiva. Devo ringraziare Luca Dini, direttore di Vanity Fair, in edicola. Tanti mi scrivono anche Paola Saluzzi, torna mercoledì prossimo. Dai, su, insomma, una settimana di pausa. E saluto Veronica Gentili, sarà fidanzata o no? La nostra Veronica è single o no? È single o no? Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Anch'io, Alessandro Mila, e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scherzi? 24 mattino. Signori, siamo qui alle 7:19 minuti, siamo pronti nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali che trovate in edicola. Caro Peter Bescapè, siamo qui con la lettura. Andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo mercoledì 25 gennaio, intanto alcune aperture di quotidiani, l'apertura finanziaria per il Sole 24 Ore su Generali, Intesa studia il piano, la Consob convoca i vertici. Questo è il titolo di prima pagina. Poi Virginia Raggi, sindaco di Roma, che è indagata ed è l'apertura per il Corriere della Sera, nomine e chat, Raggi è indagata anche per falso. Anche Repubblica, falso e abuso, Raggi indagata. E il Messaggero, abuso e falso, Raggi indagata. Titolo uguale a quello di Repubblica con parole invertite. Poi c'è ovviamente la vicenda Abruzzo. E da qui inizierò a leggere qualche articolo. Giustamente il titolo di Manifesto e l'Unità riguarda l'ultimo incidente, vale a dire l'elicottero crollato, l'elicottero caduto nell'elisoccorso. Il Manifesto: non c'è pace, c'è la foto dell'elicottero schiantato al suolo. E così anche l'Unità, che ha Roma Raggi indagata come titolo principale, però mette in grande evidenza senza pace il titolo relativo all'elicottero crollato. Qui però devo dire, su due titoli sono sobbalzato sulla sedia, perché è vero, siamo un popolo di superstiziosi e questo per me è una sciagura, è la vera sciagura, ma non mi sono piaciuti il titolo del giorno, prima pagina, montagna maledetta. C'è sempre questa idea, la montagna non è maledetta, la montagna non fa niente, è lì da migliaia di anni, è lì, non ha nulla di maledetto, semmai. Vale a dire, qualche volta magari noi sfidiamo la natura, ma la montagna non ha fatto niente, non è maledetta, e quindi primo grado di superstizione. E poi arriviamo al titolo capolavoro, forse il titolo di apertura del giornale: Dio non è abruzzese, cade elicottero dei soccorritori, altri 6 morti. Ripeto il titolo, che ho messo anche su Twitter con grande evidenza al mio profilo Alino Milan: Dio non è abruzzese. Questo è il titolo di prima pagina del giornale. Vabbè, qualche articolo che vi voglio segnalare su questa vicenda, e comincerei dal Corriere della Sera. Ovviamente l'ultima tragedia è quella dell'elisoccorso, un elicottero che è andato a prelevare uno sciatore che si era fatto male, l'ha prelevato e poi lo schianto, tutti morti. Sullo sfondo però c'è e ci sono le polemiche per l'hotel Rigopiano, i soccorsi in ritardo. Il Corriere della Sera quantifica in 2 ore e 31 minuti questo ritardo. È crollato l'hotel, ci siamo attivati, ma dal primo allarme passano appunto 2 ore e mezza. Il caos in sala operativa alla prefettura, la chiamata presa dalla funzionaria esperta di finanza. Ecco, questo è un particolare che fa capire come ci fosse quantomeno confusione all'interno della prefettura di Pescara. Il Messaggero è più preciso su questo. Paolo Mastri, pagina 8. La telefonata incriminata è quella della dirigente della prefettura, che in pratica sminuisce l'allarme di colui che ha chiamato dicendo: guardate che è crollato tutto, intervenite, intervenite subito. E invece questa dirigente dice: ma no, ma è una bufala, è da 2 ore, li abbiamo chiamati, è tutto a posto. Ebbene, era effettivamente una dirigente esperta di finanza, messa lì nella, come dire, nell'emergenza, cioè rispondi tu in questo momento. Non era una dirigente apicale, esperta di gestione dell'emergenza. Ed eccolo qui l'articolo: il caos dei soccorsi, sentita la telefonista, non decidevo io. Ed è tutto in questo articolo del Messaggero un non decidevo io, un c'era confusione, un era un'emergenza irripetibile. Eccolo qua anche su Repubblica, Fabio Tonacci, pagina 18, ho ignorato l'allarme, non è vero, ho la coscienza a posto. Insomma, la classica Italia dello scaricabarile. Non voglio dare responsabilità, c'è una procura che indaga, ma il sospetto forte è che finirà, come tante vicende all'italiana, col tutti responsabili, nessuno responsabile. Racconta Repubblica, pagina 18, Fabio Tonacci. La giornata più amara è cominciata con una telefonata all'ora di pranzo. Era la questura, sono stata convocata, dice così la funzionaria della prefettura di Pescara, che ha confuso la slavina sull'hotel Rigopiano col crollo di una stalla di pecore. Si affaccia alla porta dell'ufficio del suo capo, comunica che deve essere sentita come testimone informata dei fatti e poi ammette: sì, sono io quella della telefonata. Pallida in volto, agitata, si avvia a spiegare alla polizia perché ha liquidato come bufala l'allarme di Quintino Marcella. Nei successivi 200 metri, tanto è la distanza tra prefettura e questura, parla malapena, cerca di sfuggire alle domande, prova a opporre un assolutamente no quando le si chiede di spiegare come sia potuto accadere un equivoco di tale proporzioni. Piuttosto preferirei parlarne col Padre Eterno, sbotta, salvo poi riportare il discorso su un terreno più laico. Ci saranno modi e tempi per chiarire tutto, dice. L'importante è avere la coscienza a posto e io ce l'ho. Tutto il resto, le polemiche di questi giorni, non mi interessa. Ecco. Un intero stato d'animo in una frase. Ne seguono altre alla spicciolata. Questo è ciò che riesce a raccogliere Fabio Tonacci, che evidentemente la pedina, la scova in questi 200 metri di passeggiata, ma riesce a strappare qualche dichiarazione. Oggi però vi invito tutti a leggere Franco Bechis, vice direttore di Libero, in prima pagina proprio sull'hotel. Quella che viene definita una tragedia cercata da Libero. Tra abusi e debiti l'hotel non doveva nemmeno esistere. Franco Bechis racconta la delibera, sia pure infarcita di omissis, è nero su bianco nel bollettino ufficiale della regione Abruzzo, firmata dal geometra Enrico Colangeli, che nel 2007 era responsabile del servizio urbanistico del comune di Farindola. È lì che inizia la storia dell'hotel Rigopiano, che tragicamente si è interrotta con la valanga del 18 gennaio. In quella delibera si raccontava in premessa che il 20 gennaio 2007 la ditta Del Rosso di Pescara aveva presentato domanda di inizio lavori per la realizzazione di un centro benessere e strutture portanti in legno a servizio dell'hotel Rigopiano, in variazione al vigente strumento urbanistico. La deroga veniva chiesta perché il progetto del super resort era in contrasto col vigente piano regolatore, in quanto la zona risultava agricola. Per quel motivo alcune associazioni di ambientalisti e di consumatori, guidate a livello provinciale da Domenico Pettinari, avevano provato in ogni modo a bloccare quel progetto, presentando denunce, presentando esposti che uno dopo l'altro però venivano archiviati. e allora viene data l'inizio attività di esercizio alberghiero a gestire 9 camere singole, 27 doppie, 2 triple, 4 quadruple e così via. E tra l'altro al taglio del nastro c'era anche l'allora presidente del Senato Franco Marini. Racconta Libero: abusi, debiti non pagati, una zona dove sorge l'hotel che era agricola ed è diventata edificabile grazie a una parentela politica, proprietari che non hanno pagato rate, bollette. Questo racconta Libero, ovviamente. Una storia, beh, messa così, non bellissima. Anche questa è una storia che appare discretamente italiana. Allora, vi segnalo, soldi. Sapete che il filone soldi mi piace, perché voglio mettervi sempre di buon umore, voi che magari i soldi non li avete. Allora, il testamento di Caprotti, patrone Selunga, che è scomparso qualche tempo fa. E i figli, racconta Sara Bennewitz, che ha avuto il merito anche su Repubblica, quando è scomparso Caprotti, di pubblicare proprio in anteprima il testamento. I figli di Caprotti si oppongono, l'eredità è da rivedere. Non è valsa proprio la dichiarazione di Bernardo Caprotti, che nel testamento aggiungeva: auspico non ci siano ulteriori contrasti e pretese. E invece no, Giuseppe e Violetta, cioè i figli di Caprotti, assistiti dagli studi legali Casati e Bonelli erede, potrebbero, cioè il condizionale, potrebbero impugnare il testamento. Le contestazioni riguardano cosa? Soprattutto le società immobiliari riconducibili alla seconda moglie di Bernardo Caprotti. Dopo 40 anni di matrimonio è stata nominata lei insieme alla figlia Marina erede del 70% del Selunga, ma secondo i figli questo testamento viola in qualche modo la quota di eredità legittima che spetta per legge ai figli di primo letto dell'imprenditore lombardo che è scomparso a ottobre. Tutti i dettagli sono a pagina 18 di Repubblica. I figli di Caprotti, l'eredità è da rivedere. Era abbastanza prevedibile, come in tante eredità corpose. Ma siamo all'articolo che mi fa della giornata. Siamo o no il paese dei furbetti? E così Nicola Pinna racconta sulla Stampa a pagina 15 che una storia di furbetti pare quella che si svolge a Capo Teulada in provincia di Cagliari. Lì c'è una base militare e per questa base militare c'è il divieto di pesca, e per questo divieto di pesca il Ministero della Difesa dà un risarcimento di circa 15.000 euro l'anno, tra i 12 e i 15.000 euro l'anno, ai pescatori che sono danneggiati perché non possono pescare in quei mari. E allora che cosa succede, secondo voi? Succede che c'è un boom inspiegabile di residenti e pescatori della zona. Finti pescatori per gli indennizzi. È il business che ripopola il Sulcis. Oh, quante persone! Infatti vengono intervistati i pescatori, quelli veri, che dicono: qua ci sono tantissime barche, imbarcazioni, non sappiamo neanche di chi siano. Sono certamente di persone che vengono dalla Sicilia, dalla Toscana, perfino da Ancona, cioè dall'altra parte dell'Italia, a fare i pescatori qui, a registrarsi come falsi pescatori, o meglio pescatori ma falsi, portano qui la barchettina e il gioco è fatto. Alla fine ci sono più barche che pesci e soprattutto più indennizzi che pesci. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il trampolino dell'informazione. E allora alle 7:36 minuti veniamo alle notizie politiche. Quella che ha più risalto per alcuni giornali è Virginia Raggi indagata. Sindaco di Roma che è stata convocata dalla procura il 30 gennaio sarà interrogata nelle vesti di indagata per abuso d'ufficio e falso, come raccontano tutti i quotidiani. Ieri le è stato notificato l'invito a comparire, nel quale le viene contestata la nomina a capo del Dipartimento Turismo del Vigile Urbano Renato Marra, che è fratello di quel Raffaele Marra, ex capo del personale, vice gabinetto del sindaco, arrestato per corruzione il 16 dicembre e in questo momento in carcere. Questo è il riassunto dell'articolo di Fulvio Fiano a pagina 8 del Corriere della Sera. Ho avvisato Beppe Grillo, i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta. Questo dice Virginia Raggi. C'è anche una presa di posizione su Facebook di Matteo Renzi, l'ex premier, che ha scritto: invito il PD a rispettare la presunzione di innocenza. Dimostriamo che siamo davvero diversi. Non cerchiamo scorciatoie giudiziarie, auguriamoci che sia innocente. Racconta Carlo Bonini su Repubblica, pagina 3, il commento a questa indagine: le tre bugie di Virginia sul suo rapporto con l'ex braccio destro. È sicuro Bonini quando scrive: Virginia Raggi ha mentito almeno tre volte all'autorità anticorruzione prima, al suo movimento poi, all'opinione pubblica, e lo ha fatto nella piena consapevolezza della menzogna che era convinta di poter dissimulare, a tratti perfino con arroganza, almeno fino a quando Raffaele Marra, il suo Rasputin, non è finito a Regina Coeli. La storia è nota. Nell'ottobre dello scorso anno Renato Marra, fratello del più noto Raffaele, viene trasferito dalla polizia municipale, nominato capo del Dipartimento Turismo nel Campidoglio, all'esito di una procedura che vede la rotazione di 40 dirigenti comunali e che di legittimo non ha nulla, né la forma né la sostanza. Non la forma, perché prevede che la selezione dei dirigenti non avvenga attraverso le norme consuete del cosiddetto interpello, e non la sostanza, perché Raffaele Marra, fratello di Renato, in qualità di capo del Dipartimento del Personale, è in pieno conflitto di interessi. Ma la Raggi tira dritto. Questo è il sunto molto netto di Carlo Bonini su Repubblica per raccontare come avrà qualche problema da spiegare alla Procura, evidentemente secondo questa ricostruzione che Carlo Bonini fa. Tra l'altro, il Messaggero racconta che il Movimento 5 Stelle tira dritto, è stato cambiato anche il codice etico, per cui un avviso a comparire non è più motivo per dimettersi. In realtà, secondo il Messaggero, lo raccontano Simone Canettieri e Lorenzo De Cicco a pagina 3, c'è già un piano B. Il piano B per il movimento sarebbe l'autosospensione. Ricordate quello che ha fatto il sindaco di Milano Sala? Ebbene, sappiate che Virginia Raggi, che in questo retroscena racconta: ecco, mi aspettavo tutto, ma calma e gesso, questo avrebbe detto ai suoi collaboratori, Beppe è con me, il movimento è con me. Al di là di queste dichiarazioni, ai vertici del movimento già ronza un piano B da settimane. Passerebbe attraverso l'autosospensione del sindaco, modello Beppe Sala, anche prima di una condanna, se dalle chat dei quattro amici al bar, così era chiamata la chat su WhatsApp, uscissero fuori messaggi compromettenti. Staremo a vedere. Certo, è molto salace oggi Iena sulla Stampa, pagina 5. Virginia Raggi, dalla procura invito a comparire, dai romani invito a scomparire. Allora, l'Italicum, l'altra notizia politica del giorno, doveva arrivare ieri la sentenza della Corte Costituzionale, è rinviata a oggi, pare attorno alle ore 13. Ma i giornali assicurano di una battaglia tra avvocati e la Consulta. Questo ovviamente è quanto si è registrato ieri tra chi sosteneva la legittimità dell'Italicum approvato in via definitiva a maggio 2015, ma è in vigore dal luglio dello scorso anno, non è mai stato testato. E proprio questo è un punto. Oggi ci sarà il verdetto. Secondo alcuni avvocati, per esempio secondo l'Avvocatura dello Stato, che è intervenuta per conto del governo, un punto dirimente è proprio questo: non si può cassare, cioè cancellare, una norma come l'Italicum che non è mai stata neanche provata fino ad ora, non è mai stata neanche testata. E allora la decisione verte anche su questo: è possibile giudicare un sistema elettorale entrato in vigore ma non ancora sperimentato? Quelli che vorrebbero cancellare l'Italicum dicono di sì, assolutamente. Evitiamo concioni parapolitiche, restiamo giuristi. Quelli che invece, come l'Avvocatura di Stato, vuole difendere per conto del governo l'Italicum, dice no, bisogna prima almeno testarlo. Comunque le questioni sono il premio di maggioranza, il ballottaggio, tutti elementi molto tecnici. Il succo è: in base a quello che si deciderà, e secondo il Fatto Quotidiano si deciderà per esempio di togliere di fatto l'Italicum, si capirà se si potrà andare più o meno rapidamente a elezioni anticipate o se invece si volgerà verso il termine naturale della legislatura, e quindi 2018. Insomma, in soldoni ancora più stretti, se sarà l'ennesima, dopo il referendum, sconfitta per Renzi, che vuole andare a votare al più presto, magari a giugno, in modo da cercare di tornare al governo, o se invece sarà una vittoria per Renzi, perché ci sarà la possibilità di andare a votare appunto presto. Vedremo. Anche per la stampa, l'Italicum ormai è al capolinea. Questo è il titolo dell'articolo di Ugo Magri. Alle 13 ci sarà questa sentenza. Vi segnalo però un articolo molto interessante che riguarda l'Unione Europea, riguarda l'immigrazione, è un'anticipazione di Repubblica, Alberto D'Argenio, che è sempre ben informato da questo punto di vista, è in prima pagina di Repubblica. L'Unione Europea ha un piano per dire subito stop ai migranti dalla Libia, e questo piano, udite udite, è un blocco navale. Ma come? Ma insomma, quando lo aveva proposto la Lega col ministro Maroni era una cosa considerata assolutamente vergognosa. Adesso a livello europeo stanno discutendo proprio questo. Navi dell'Unione Europea in acque libiche, ecco il piano di Bruxelles per bloccare i barconi. Due pagine di Repubblica. È l'iniziativa della presidenza maltese, con l'ok di Angela Merkel. Sulle imbarcazioni italiane ci saranno anche militari degli altri paesi. È il piano definito Line of Protection, la creazione di questa linea di protezione, un blocco navale fatto dai libici per impedire ai trafficanti di partire dai porti che affacciano su Italia e Malta. Uno schieramento che vedrebbe in prima linea i libici, grazie ai fondi, i mezzi, gli addestramenti europei, ma alle loro spalle la missione europea. Inoltre, per distruggere il business dei trafficanti, i leader pensano di imbancare sulle navi militari europee e quelle italiane uomini della forza di gendarmeria europea per distruggere i barconi. Mauro Meazza, attenzione! Ma com'è possibile? Buongiorno, ma guarda, leggevo la corrispondenza di Beda Romano sul tema, proprio in pagina 21 del Sole 24 Ore, ma guarda, bisogna che aspettiamo questo vertice che ci sarà appunto nei prossimi giorni, in cui si discuteranno i dettagli di questa di questa proposta. Vedremo, molto vedremo. Articolata, con tutta anche una collaborazione internazionale, insomma, un progetto che deve prendere ancora bene forma, anche se i lineamenti, le tracce sono quelle che di cui tu hai dato conto, ma vediamo. Mi pare che uno dei passaggi più importanti sia che l'Unione Europea si è accorta che è in atto uno spostamento massiccio di persone dall'Africa verso l'Unione Europea. Bene, questo, bene. Come dire, meglio tardi che mai. Ti volevo segnalare, siccome mi pare che questa sera, non ricordo più perché competizione, ma si giochi una partita, per la quale io naturalmente, come sempre, ti faccio molti auguri. Grazie. Per quanto non sia molto interessato, però una partita che, visto il vostro sfidante, potrebbe essere importante per l'arbitro. Allora, oggi sul Sole 24 Ore parliamo dell'arbitro, ma per le controversie finanziarie. Però non è lo stesso arbitro appunto che ci sarà questa sera in campo. Invece le controversie finanziarie sono una cosa molto seria, perché dal 9 gennaio sono una modalità per i risparmiatori che non si sono sentiti tutelati o addirittura danneggiati in caso di investimenti. Tutti i particolari oggi con il Sole 24 Ore in 16 pagine. Poi molte altre cose, Brexit, hai visto che c'è stata questa decisione dell'Alta Corte, ha detto no, deve decidere il Parlamento, non può fare tutto da sola la signora May, e allora bisognerà vedere se questo allunga ulteriormente i tempi. Qui si parla di andare oltre il 2020, diciamo, quando più o meno il Milan sarà venduto ai cinesi, forse. E poi naturalmente ti segnalo Trump, sono molto internazionale oggi, non so se hai notato. Ecco. Ti segnalo l'incontro di Trump, che oltre a proseguire con diciamo il suo far venire meno gli accordi internazionali per il commercio internazionale, ieri ha incontrato i big dell'auto, tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi. Poi Mattia sta dormendo bene, si sta addormentando bene, perché cavolo, oltre, cavolo. Ecco, Perché i derivati l'hanno stroncato. Molto bene, ne sono contento. Ed allora ti consiglio anche, ci sono le bozze di Unico, anzi non si chiama più Unico, chiedo scusa, si chiama modello redditi PF, cioè persone fisiche. Puoi mostrarglielo come fosse anche un po' quei libri illustrati. Eccolo qua. Sono disponibili, ne riferiamo naturalmente in norme e tributi. Glielo mostro stasera. Mostraglielo stasera, perché può darsi che appunto che il solito libro di fiabe sia più interessato. Saranno molto interessati invece tutti i professionisti, ma consiglio la lettura anche ai non professionisti per capire come cambierà la dichiarazione dei redditi. Mm-hmm. Si stanno intanto intensificando gli incontri per scongiurare lo sciopero dei commercialisti, sempre a proposito di fisco. Mm-hmm. E poi ti volevo dire un punto importante, forse arriva l'educazione finanziaria a scuola, forse, perché nel decreto cosiddetto salva risparmio si sta discutendo di introdurre anche questa materia. Staremo a vedere, tu intanto prepara Mattia leggendogli appunto magari norme e tributi o anche finanza, che può cominciare a leggere avidamente fin da piccolo, gli farà bene secondo me. Caro Alessandro, traffico! Alessandro Mila, ciao, continua così, va avanti così, va bene così, bravo, bravo Alessandro, bravo. Grazie. Qui le notizie, bene. E noi ascoltiamo. Oh, ecco, bene, bene, grazie, grazie. Allora, alle 7:49 minuti, per rimanere a livello internazionale e visto che si parlava di blocco navale possibile in Libia, oggi a proposito di Libia Lorenzo Cremonesi fa uno scoop, nel senso che per il Corriere della Sera intervista il leader di Tripoli, vale a dire Fayez al-Sarraj, 56 anni, leader del governo di accordo nazionale con l'appoggio internazionale, con l'appoggio dell'ONU, con l'appoggio dell'Italia, che lo riconosce come leader della Libia. Sapete che però c'è un altro leader che è Haftar, che è nell'est del paese, la situazione è un po' complicata. Ovviamente Fayez Sarraj in questi 50 minuti di intervista con il Corriere della Sera e con Lorenzo Cremonesi invita l'Italia a rimanere con noi, questo dice, assicura l'ambasciata è al sicuro, nonostante, chiede Cremonesi, ci sia stato un attentato a 400 metri dall'ambasciata nei giorni scorsi, ma dice al-Sarraj, nella zona ci sono altri possibili obiettivi, non sappiamo se sia stato un attentato o un incidente, forse la vostra ambasciata non c'entra nulla. Insomma, è fondamentale il vostro ruolo, rimanete al mio fianco. Questo è l'invito, appello che al-Sarraj fa attraverso le colonne del Corriere della Sera. Sempre per quel che riguarda gli esteri, abbiamo appunto capito che la Brexit sarà un processo abbastanza lento e dovrà passare soprattutto attraverso il Parlamento britannico. Questo è quello che ha deciso la Corte Suprema britannica, che ha dato torto al governo in un ambito di ricorso da parte di un avvocato. Il governo britannico con la Premier May voleva un po' accelerare, ma invece dovrà passare attraverso un iter che deve comprendere anche il passaggio alle Camere. E Leonardo Maisano racconta tutti i dettagli a pagina 3, in questo procedimento della Brexit che, ripeto, è molto lungo. Voglio tornare in Italia perché c'è una vicenda che dà motivo ad Avvenire di fare il titolo di prima pagina. È una vicenda, abbiamo sentito anche nel giornale radio, che riguarda la maternità surrogata, tanto per capire, l'utero in affitto, anche se è un'espressione brutta, ma almeno così lo capiscono tutti. Un no alla surrogata è il titolo di prima pagina di Avvenire. La Corte di Strasburgo boccia l'utero in affitto per una coppia senza legami col bimbo. È una vicenda che poi è approfondita da Giovanni Maria Del Re a pagina 7 di Avvenire, ma è su tutti i giornali. Eccolo qua, per esempio, il Corriere. Strasburgo, è giusto togliere il figlio nato con la surrogata? Ecco, leggo per esempio dal Corriere, Elena Tebano. La Corte Europea dei Diritti Umani torna a pronunciarsi su un caso italiano di maternità surrogata e stabilisce che l'Italia poteva togliere ai genitori il bambino nato all'estero con questa forma di fecondazione. Il giudizio riguarda una coppia di coniugi molisani, Paradiso Campanelli. La coppia nel 2011 aveva avuto un figlio grazie a una madre surrogata, quindi utero in affitto, in Russia. ed era stata accusata di averne falsificato il certificato di nascita che li riconosceva come genitori del bimbo, aver violato così le leggi sulle adozioni. Durante il processo il piccolo, che aveva ormai 8 mesi, era stato tolto alla coppia e dopo un periodo in casa famiglia era stato dato in adozione. I coniugi si erano opposti e contro questa decisione hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, sostenendo che l'allontanamento del bimbo violava il suo diritto fondamentale a una vita familiare protetta dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Alla fine, prima a Strasburgo 2 anni fa i giudici avevano dato loro ragione, ora invece la grande camera della stessa Corte Europea dei Diritti Umani ha ritenuto che, non essendoci legami biologici tra bambino e coniugi e avendo il piccolo passato solo 8 mesi con loro, non esisteva fra i tre una vita familiare. Beh, è una notizia che sicuramente fa esultare, avvenire tutti coloro che sono contro l'utero in affitto, dicendo: vedete, non c'è un legame biologico e dunque il figlio non è loro. Torniamo alla cronaca invece. Vi segnalo velocemente per la cronaca che ci sono alcuni articoli, per esempio i nuovi spari contro l'imprenditore Bacci. L'imprenditore Andrea Bacci, 55 anni, titolare di un'azienda di pelletterie, è anche titolare della Lucchese Calcio e è anche un amico di Renzi, della famiglia Renzi, così viene definito su tutti i giornali. Per il secondo giorno consecutivo spari contro di lui, cioè contro di lui non fisicamente, prima contro una sua auto, dopo contro l'azienda, il giorno dopo. La Verità fa un'apertura e tra l'altro c'è anche un'intervista, la faccio vedere anche nel mio profilo Facebook, siamo in diretta in questo momento. Se avessi dei sospetti non li direi, viene anche intervistato, raggiunto da Cristian Campigli della Verità e risponde questo imprenditore Andrea Bacci: ho risposto per educazione nonostante abbia riconosciuto il suo numero, ma voglio parlarle. Come vuole che stia, ho vissuto momenti migliori. Sto male, non lo voglio negare, sono molto preoccupato. Onestamente, se non lo fossi, dopo quanto è successo, dovrei essere internato in un manicomio. E poi questa frase che dà il motivo del titolo: se avessi dei sospetti, non li direi. Sono preoccupato per me e per i miei 100 dipendenti. L'imprenditore Andrea Bacci. Va bene, vi segnalo che se per caso il costo del salmone, avete notato, è aumentato, è dovuto tutto ciò al pidocchio di mare che fa abbassare la produzione del 5% in Norvegia e fa aumentare per questo i prezzi del salmone a livello internazionale. Colpa del pidocchio di mare. Ma siamo alla carta... Ho dimenticato la carta costa. Peter Bescapè, ho dimenticato la carta costa. Ma chi se ne frega!